9 in punto. Eccoci qua, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, una buona giornata da Simone Spezzi e benvenuti a 9 in punto. Se vogliamo cercare un'immagine simbolo di questi giorni, una delle immagini simbolo sicuramente di quel che sta avvenendo in Egitto, sono gli elicotteri dell'esercito che con le bandiere egiziane sorvolano piazza Tahrir tra le urla di gioia della folla. Parliamo di Egitto dunque oggi, cerchiamo di approfondire, di capire che cosa sta succedendo e quali possono essere gli sbocchi. Buongiorno Osama Boshra, salve. È con noi. Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ospiti, a tutta l'Italia. Allora, è un attivista egiziano, parla molto bene italiano, come sentite, perché è una guida turistica nella vita, è un attivista egiziano, attivista di sinistra e da giorni manifesta, forse da mesi addirittura. Da quanto, Boshra? Ormai sono 2 anni che siamo in piazza. Due anni che siamo in piazza, insomma, naturalmente alternando tutto questo col lavoro, perché sennò insomma non potrebbe sopravvivere, evidentemente. Naturalmente... Ormai non ci lavoro, quindi siamo sempre in piazza. Senta una cosa, come mai protesta? Dunque, ormai gli egiziani si trovano, parlo della maggioranza degli egiziani, si trovano completamente isolati dal presidente e dai suoi sostenitori. Ormai il presidente, quando esce a parlare, quando deve apparire per qualsiasi evento, si trova solo circondato dai fratelli musulmani e i loro sostenitori di ex terroristi, jihadisti, islamisti di tutte le correnti in Egitto. E quindi ormai l'Egitto si sta dividendo tra non opposizione come dovrebbe essere presidente, ma stiamo dividendo tra coloro che stanno circondando il presidente e tutto il resto degli egiziani. Ci sono anche altre ragioni, evidentemente, perché poi, insomma, come dire, si lotta per i diritti politici, si lotta perché, insomma, questa politica non piace, ed è il caso anche suo, evidentemente, e però si lotta anche per il pane, come si diceva poco fa nella parte che precede questa trasmissione. C'è anche un paese in una situazione economica di crisi profondissima, disoccupazione ai massimi, turismo in calo fortissimo. Vedevo dei dati che indicavano che il tasso di occupazione degli alberghi a Luxor è intorno al 5%. Lei mi diceva ieri, quando ci siamo sentiti, che è anche andato a Luxor di recente. Che situazione ha trovato? A Luxor sono stato un paio di settimane fa e ho visto una Luxor che non ho mai visto in vita mia. Parlo di più di 20 anni di carriera. Ho visto cavalli affamati, da non parlare degli uomini. Ho visto gente senza lavoro, seduta sul marciapiede, per niente. Ho visto Luxor in pieno buio. Chi è stato a Luxor si ricorda benissimo il bellissimo tempio di Luxor che illumina tutta la città di notte. Ho visto una Luxor triste, una Luxor quasi vedova. Ho visto una scena che non avrei mai sognato di vedere. Drammatica. Allora Boshra, resti con noi. Io saluto i nostri ospiti, poi ci raggiungerà più tardi anche il vice ministro agli esteri, Lapo Pistelli, che è quello che ha la delega per l'Africa. Tra l'altro ha scritto un libro sulle primavere arabe, delle quali stiamo vedendo in parte dei frutti, che forse sono avvelenati oppure non lo so. Insomma, è proprio di questo anche che vogliamo parlare. Magdi Cristiano Allam, europarlamentare, presidente di Io Amo l'Italia, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi tutti. E buongiorno ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, esperto di Egitto. Alberto, buongiorno anche a te, benvenuto. Buongiorno a voi. Alam, l'unica via, l'unico modo per uscirne è l'esercito, secondo lei, da quel che ho visto che ha scritto anche sul giornale? Ma intanto vorrei sottolineare quello che ha detto poco fa l'amico Osama, che è da 2 anni che sta in piazza perché non c'è lavoro. Questa è il punto nodale, focale della nostra discussione, unitamente a quello che ha appena detto sulla situazione del turismo a Luxor, che è il più grande museo a cielo aperto del mondo. Se noi non comprendiamo che c'è un 40% di egiziani che vive al di sotto della soglia di povertà, che il 70% della popolazione è al di sotto dei 30 anni e sono giovani senza prospettiva, senza lavoro, senza certezza alcuna, non riusciremmo a comprendere la ragione profonda di questa rivolta, che è stata prima nei confronti del presidente Mubarak e ora nei confronti dell'esponente dei Fratelli Musulmani, con alla base la medesima motivazione, cioè la necessità di pane, di lavoro, di occupazione, di futuro per i giovani. E questo di base, e secondo lei lo sbocco quale può essere? Qual è lo sbocco naturale di tutto questo e quale dovrebbe essere lo sbocco secondo lei? Io naturalmente non l'ho ricordato, ma insomma lo sapete tutti perché Magdi Alam lo conoscete, è egiziano, naturalmente è per questo che abbiamo voluto che fosse con noi. Allora, quale può essere lo sbocco e quale dovrebbe essere? Prego. Allora, non è un caso che da 7.000 anni in Egitto c'è un governo che è fortemente centralizzato, autocratico, e questo si deve al fatto che l'Egitto, sin da quando Erodoto 500 anni prima di Cristo lo descrisse come il dono del Nilo, l'Egitto vive esclusivamente grazie alle acque del Nilo. Il rigoroso controllo di questa fonte vitale per l'Egitto, che a partire dagli anni 60 è anche l'unica fonte che dà energia a tutto l'Egitto, ha storicamente imposto la necessità di un governo fortemente centralistico e di un governo capace di imporre l'ordine e la sicurezza. Il regime militare aveva garantito questa situazione in un contesto dove tuttavia c'è stata sicuramente dittatura, c'è stata corruzione, c'è stata incapacità di dare delle risposte ai problemi di fondo della massa di giovani egiziani. Ma il regime islamico è molto peggio. Il regime islamico non garantisce i diritti inalienabili alla vita, alla dignità e alla libertà di tutti, e abbiamo assistito ad una recrudescenza nei confronti di tutti coloro che non corrispondono ai loro parametri. Quindi, se messi alle strette, io dico che noi dobbiamo scegliere il male minore, investendo in un regime militare laico, liberale, a cui noi dobbiamo chiedere degli impegni precisi in tema di salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, a partire da quello che riguarda il lavoro, l'occupazione e la povertà, la lotta contro la povertà, che sono i veri problemi di fondo dell'Egitto. Alberto Negri, veniamo a te. Secondo te, da osservatore a questo punto un po' più esterno naturalmente, quindi da giornalista ovviamente, rispetto alle due persone che abbiamo sentito finora, quale può essere lo sbocco possibile? Che cosa può succedere? Che fronti di preoccupazione ci sono? Può esplodere tutto in nuove ondate di violenza? Ma dunque, innanzitutto comincerei da un'analisi un po' spassionata della situazione. È verissimo che il governo islamico del presidente Morsi ha fallito, e probabilmente un fallimento dell'Islam politico che avrà influenze anche regionali e non soltanto dentro l'Egitto. Ma se noi andiamo a guardare gli ultimi 50-60 anni della storia di questo paese, ci rendiamo conto che il fallimento non è soltanto imputabile a un governo di 2 anni, è il fallimento di una classe dirigente abbastanza incompetente, incapace, e di questa classe dirigente non hanno fatto parte soltanto i Fratelli Musulmani negli ultimi 2 anni, ma gli stessi militari che sono al potere da 60 anni ci andarono con Nasser e il colpo di Stato del 1952, seguito da quello del 1954, e sono stati dietro sempre alle scene del potere politico, manovrandolo e anche occupando posti importanti dal punto di vista economico. Insomma, i generali che oggi si propongono, come si erano già proposti 2 anni fa, come elementi fondamentali della transizione, devono prendersi anche loro le loro responsabilità se vogliono scaricare Morsi, come sembra. E questo mi sembra importante da sottolineare, perché il problema oggi di queste primavere arabe cosiddette è che sono emersi 2 aspetti. Uno, il fallimento delle classi politiche, con il fallimento di questi stati stessi, i conti purtroppo e le cifre, come si diceva prima, lo dimostrano. E il fatto che sono emerse delle società fortemente polarizzate, da una parte il tentativo egemonico dell'Islam politico, dall'altra parte un'opposizione liberale, secolarista, laica e comunque non disponibile a essere egemonizzata da questi islamici. Con questi 2 gravissimi problemi che abbiamo di fronte, i militari possono essere sì una soluzione, come diceva Magdi prima, ma possono essere anche una parte del problema se non riusciranno ad affrontare quelli brucianti che ha di fronte questo paese. C'è chi fa paragoni in questo momento tra l'Egitto e l'Italia, perché abbiamo raccontato una situazione economica difficile. Alcuni ci dicono: quando i nostri giovani scenderanno in piazza per spazzare via i banditi al governo? Quando noi in Italia avremo il coraggio di fare come gli egiziani? Beh, insomma, ragazzi, la situazione, consentitelo, insomma, è lievemente diversa. Allora, Bosra, ieri sempre parlando, io gli dicevo, su questo ultimatum del governo, a me puzza un po' di colpo di Stato, insomma, però forse chiaramente è il punto di vista di un europeo, non è il punto di vista di un egiziano. Ricordo intanto agli ascoltatori il numero per intervenire in diretta, se vogliono l'800240024, anche per fare domande se volete. Allora, Bosra, non è un colpo di Stato, lo è? Io non ho una lettura chiara della situazione dal mio personalissimo punto di vista di italiano, ecco, prego. Prima di tutto, se mi permettete, vorrei sottolineare velocemente una cosa. Noi ormai siamo in piazza, in numeri mai visti nella vita politica dell'Egitto, per un motivo principale e fondamentale, che non è più l'economia, non è più il nostro pane. Noi sentiamo un profondo tradimento dalla parte dei Fratelli Musulmani, sentiamo che stanno letteralmente portando via il nostro paese. Ormai gli egiziani sono estremamente preoccupati, perché sono stati anche estremamente provocati da Morsi e dai suoi fratelli e dai terroristi che lo stanno sostenendo. Questo è punto uno. Due, dal punto di vista politico, noi non abbiamo un governo, questo va sottolineato e va detto a tutto il mondo. Chi sta governando l'Egitto, chi sta regnando in questo momento è il Morshed, cioè la guida generale dei Fratelli Musulmani. Non può uscire, non può decidere assolutamente niente Morsi senza essere senza fare riferimento al suo capo generale. Quindi ormai gli egiziani si sentono stranieri nel loro paese, quindi siamo estremamente preoccupati. Un vero governo non esiste, non abbiamo nemmeno un politico in un governo tutto nominato da Morsi e dai Fratelli Musulmani. Quindi la situazione è molto, è al di là dell'aspetto, diciamo, economico e politico. Sì, però non mi ha risposto alla domanda alla fine, insomma. Per quanto riguarda l'esercito? Questo ultimatum dei militari è un colpo di Stato oppure no? Allora, prima di tutto dobbiamo vedere un po' la storia dell'Egitto. L'Egitto è sempre stato un paese governato dai generali, questo già da 5.000 anni. Purtroppo è stata anche condivisa l'autorità in Egitto tra generali e sacerdoti del Tempio, come li chiamo sempre. Quindi siamo sempre della stessa fine. Se gli egiziani dovessero oggi scegliere tra un regime fascista, religioso e l'esercito, sicuramente, senza ombra di dubbio, senza pensare due volte, gli egiziani si rivolgono al loro esercito. Ormai gli egiziani sono, cioè una parte degli egiziani, sono in piazza da oltre 10 giorni davanti al Ministero della Difesa a chiedere protezione dell'esercito. L'esercito una settimana fa ha intervenuto e ha proposto una settimana di tempo in modo tale che Morsi si metta d'accordo con l'opposizione, o cosiddetta l'opposizione, perché ormai una opposizione non esiste. Naturalmente nessuno si mette d'accordo, perché sappiamo benissimo come la pensano i fratelli musulmani, e così infine l'esercito ieri ha voluto intervenire dando 48 ore a Morsi a trovare una soluzione. Noi sappiamo benissimo che una soluzione non esiste, non ne usciremo, perché siamo davanti a gente armata, questo va detto. Stiamo parlando con sostenitori di Morsi che sono armati. Cioè lei dice non se ne esce se non con le dimissioni di Morsi e con le dimissioni del governo. Allora la fermo, resti con noi e sentiamo. Prego. Iniziamo a sentire qualche ascoltatore. Giovanni da Parma, buongiorno. Pronto, buongiorno. Telefono per dare un'informazione, principalmente di un'esperienza che mi è capitata in Egitto, dove praticamente ci lavoro. Ci lavora in che senso? Nel senso che è un dipendente, un medico, o ha un'azienda? No, sono un medico del lavoro che segue delle aziende che lavorano in Egitto, e quindi periodicamente vado in Egitto a fare delle visite mediche e collaboro con delle persone egiziane. 3 anni fa il nostro autista ci parlava di Mubarak e ci diceva che Mubarak praticamente impediva alla gente di mangiare, dicendoci il prezzo del latte, il prezzo della carne rispetto allo stipendio medio, ed era entusiasta della lotta che poi dopo sarebbe scoppiata. A distanza di 6 mesi è scoppiata la primavera araba. Lo stesso autista invece quest'anno che cosa ci ha detto? Ci ha detto che i fratelli musulmani praticamente stanno mettendo l'Egitto in una crisi petrolifera fortissima, in quanto hanno fatto una legge, o stanno discutendo una legge, che obbliga ogni cittadino egiziano a non consumare più di 150 litri di benzina al mese. Quindi ci sono delle code interminabili ai distributori di benzina, e la politica è quella di impedire agli egiziani di viaggiare, di camminare, di muoversi. Togliendo la benzina tu impedisci a un popolo di svilupparsi, e c'è una rabbia enorme. Questo è uno la nostra compagnia adesso ha lasciato l'Egitto, o comunque è in procinto di lasciare l'Egitto, perché non ha la possibilità di lavorare non avendo la benzina. Si è tornati al contrabbando di benzina in Egitto. Grazie. L'unico modo affinché l'Egitto succederà, diceva questo autista, che succederà un'altra rivolta, perché il presidente non nascerà. La stiamo vedendo nei fatti, la rivolta. 9 in punto. .800 24 00 24 per intervenire in diretta. Sentiamo Walid da Rimini, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io vorrei commentare che per risolvere il problema da noi, noi dobbiamo avere un governo laico, non un governo religioso, perché sai, noi siamo egiziani, abbiamo musulmani, cristiani, ebrei, altre religioni. Come può essere che abbiamo un governo islamico? E questo è il problema fra le popolazioni. Certo, lei vive in Italia da quanto? Vivo in Italia da 14 anni, sono già cittadino italiano e mi sento indignato a quello che succede nel mio paese. Certo. Grazie Walid per la sua testimonianza. Saluto Lapo Pistelli, vice ministro agli esteri con delega all'Africa, persona che si è occupata, buongiorno, si è occupata molto delle primavere arabe, c'è anche scritto un libro. Buongiorno dunque Pistelli. Dunque, non ha l'impressione che il cosiddetto Occidente, anche se in realtà poi non siamo ad occidente di nessuno, ma siamo più che altro a nord, a nord del Maghreb, il cosiddetto occidente abbia dato troppo credito ai fratelli musulmani a Morsi, a questo nuovo Egitto? Ma no, guarda, io credo che l'Europa, l'Occidente vuol dire poi l'Europa e gli Stati Uniti, abbiano incoraggiato un processo democratico che nel suo primo round ha dato un esito, che magari non era quello che tutti avrebbero sperato o si sarebbero aspettati, ma quell'esito era. In Egitto, a differenza di altri paesi, un esito molto marcato, perché la somma di fratelli musulmani e salafiti al Nur sostanzialmente dava i 2/3 dell'elettorato. Questo ha fatto ovviamente parlare di una sorta di spirito della rivoluzione tradito, dirottato, il fatto che coloro che hanno vinto nelle elezioni non corrispondessero a quei profili laici, secolari, più moderni che si erano visti in Piazza Tahrir, anche se Piazza Tahrir in realtà era già un contenitore di cose molto diverse. È chiaro che si può forse rimproverare a qualcuno, ma non esagererei in tal senso, che così come i fratelli musulmani erano stati lasciati, diciamo così, nelle galere egiziane per molto tempo, così sono stati sdoganati tutti interi all'indomani delle elezioni, mentre sarebbe servito forse una maggiore attenzione sia prima che oggi. Però mi permetto di dire che i processi rivoluzionari non sono mai processi che procedono in modo lineare, e quindi questa, ahimè, è la puntata di un film che è destinato a proseguire ancora nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Che sbocco vede? Ma noi siamo esattamente alla metà di un ultimatum di 48 ore, un ultimatum, diciamo così, un autorevole consiglio dato dalle forze armate 24 ore fa e che scade fra 24 ore. Credo sia importante notare due cose. Primo, che le forze armate con l'intervento di ieri non testimoniano l'intenzione di tornare a dominare la scena, non c'è questo nel comunicato che è stato letto. Secondo, testimoni quanto il rapporto triangolare che ha sempre connotato la rivoluzione egiziana, quindi la piazza, chiamiamola così, Tahrir, le forze armate, i fratelli musulmani, sia un triangolo in cui le alleanze sono mutevoli. Ci sono state volte in cui l'esercito è sceso comunque silenziosamente a fianco del governo, dicendo che non avrebbe tollerato ulteriori disordini 6-7 mesi fa. Questo è più un momento nel quale sembra dire a chi sta al governo: dimostrami in 24 ore che sei capace di ascoltare la piazza e di proporre una roadmap, una exit strategy convincente. Questo è un paese che ha 85 milioni di abitanti, vi abita fra il 25-30% dell'intero mondo arabo, nessuno di noi si può permettere che l'Egitto deragli. Per questo bisogna essere molto cauti, molto attenti e incoraggiare il più possibile ogni ravvicinamento e ogni dialogo di carattere unitario. Davide da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Ringrazio e saluto gli ascoltatori. Guardi, io sono di origine araba, per cui ho seguito la primavera araba con molta, molta attenzione e conosco bene il mondo arabo. Di origine araba di dove? Siriana. Prego. Quello che volevo fare io è allargare un po' il ragionamento, oltre che all'Egitto, a quello che sta succedendo in questo momento in Turchia e in quello che, ahimè, sta succedendo in Siria. Ragionando nel fatto che non sempre il cambiamento è positivo, bisogna vedere anche qual è la direzione del cambiamento. Purtroppo i fratelli musulmani, che sono stati sdoganati molto, molto presto, come è stato tra virgolette sdoganato anche Erdogan, e gli si è data una grandissima fiducia da parte dell'Occidente, dimostrando per l'ennesima volta che l'Occidente non ha una conoscenza del mondo arabo e non ha una conoscenza soprattutto del mondo islamico, che in questo momento si sta radicalizzando in maniera drammatica. Quello che sta succedendo in Egitto, quello che sta succedendo in Turchia, non è una guerra o una rivolta solo per il pane. Su questo molti ascoltatori e anche molti suoi ospiti l'hanno detto. È una rivolta per i valori che un paese ha e che vengono traditi. Cioè la laicità di quei paesi era una, è un loro valore che loro si portano dentro. Perdere la laicità, e guardate che l'islamizzazione non è una cosa così indolore. Cioè quando un governo decide come tu ti devi comportare in pubblico, se puoi o non puoi accarezzare o baciare tua moglie o la tua ragazza, quando un governo va e entra nella tua sfera di vita privata dicendo cosa puoi o non puoi mangiare o bere, per un paese laico come com'è l'Egitto, per un paese laico come era la Turchia e come era la Siria, diventa drammatico questo cambiamento. E la gente risponde. Grazie. Io, devo essere sincero, io auspico l'intervento dei militari, che non hanno quella figura sudamericana come è nella nostra cultura, hanno una figura molto diversa in Medio Oriente. Grazie Davide. L'intervento anche in Turchia. Grazie Davide. Grazie Davide. Voglio sentire Alberto Negri, abbiamo abbandonato un po' negli ultimi minuti, perché questo parallelo che ha fatto Davide, questo parallelismo che ha fatto Davide tra la situazione egiziana, la situazione turca e la situazione siriana mi sembra interessante e su questo ti vorrei stimolare. Come la leggi, Alberto? Perché si è parlato anche di fallimento dell'islamismo al governo, dell'islam al governo, anche nel caso turco, seppur parliamo di un islam cosiddetto moderato, forse qualche segnale l'abbiamo letto anche là. Ma innanzitutto non vorrei ripetere cose che ho già detto e stradetto mille volte, sono 30 anni che vengo di Oriente, quindi ci siamo sentiti mille volte su questi problemi. Ma se dobbiamo fare un'analisi della situazione comparativa, che peraltro è sempre difficile comparare situazioni diverse, ritorniamo sempre allo stesso problema, perché qui il fallimento, attenzione, adesso parliamo del fallimento dell'Islam politico, ma prima c'è stato anche il fallimento degli stati laici secolaristi. In Siria è fallito lo stato laico del partito Baath, fondato negli anni del dopoguerra e che poi ha detenuto il potere attraverso i colpi di Stato e con la famiglia Assad e la minoranza alawita per 40 anni. In Turchia, prima che Erdogan prendesse il potere, abbiamo avuto colpi di Stato dei militari, avevamo un scenario politico estremamente frammentato e instabile. E attenzione, questi partiti islamici qualcuno li ha votati, perché il signor si è preso il 51% dei voti l'anno scorso e il 70% dei voti tra fratelli musulmani rafiti, come ricordava molto bene prima l'Apo. E attenzione, Erdogan in Egitto ha vinto 3 elezioni di fila stravincendole. Cioè qui ci chiediamo anche che cosa vogliamo e quale espressione vogliamo di queste società. La realtà e che noi ci troviamo di fronte a società, come dicevo prima, fortemente composite ma anche polarizzate. E non solo, ci troviamo di fronte a ereditare non soltanto delle rivoluzioni della primavera araba, queste rivoluzioni della primavera araba sono nate da precedenti fallimenti, i fallimenti di questi stati laici secolaristi, il fallimento del regime di Mubarak, il fallimento del regime di Assad in Siria. Purtroppo, come diceva giustamente l'ascoltatore prima, le direzioni che poi prendono questi fallimenti con le rivoluzioni successive molto spesso non sono quelle che noi desideriamo, altrimenti ci troveremmo in situazioni quasi come dire geometriche o aritmetiche. La verità è che purtroppo non è così, perché quando tu devi avere a che fare con stati falliti, ripeto, falliti, perché hanno fallito il loro compito di tenere insieme socialmente, economicamente una popolazione composita, e noi ci troviamo di fronte proprio a queste situazioni. L'intervento dei militari è positivo nel momento in cui riesce a ricostituire un'unità per questi paesi, a rappresentare tutte le componenti di questi paesi, ma possono i generali in Egitto non tener presente che i fratelli musulmani salafiti hanno un largo seguito o tornano alla repressione che fece Mubarak e Nasser prima? Possono in Turchia la piazza a pensare di cacciare via Erdogan e il governo islamico senza rappresentare quegli islamici che sono stati tenuti ai margini per 40 o 50 anni? E in Siria, prima ancora di trovare una soluzione politica, non bisogna trovare una soluzione che in qualche modo fermi questo massacro? Sono queste le domande brucianti che abbiamo davanti. Per questo oggi nessuno, neppure i militari, hanno in mano la soluzione dei problemi. Allora, prima di ritornare da Magdi Allam, voglio risentire la Popistelli perché tra poco ci deve lasciare, so che insomma una serie di impegni, normale, il vice ministro agli esteri, insomma, quindi giornate piuttosto intense. Allora Pistelli, come diceva Negri, in realtà la situazione è molto, molto più complessa, no? Sì. Di quel che può apparire dal nostro punto di vista, evidentemente, da dove siamo noi, no? Noi vediamo o una battaglia laici, religiosi, oppure una battaglia per il pane, in realtà è tutto molto più composito, per così dire. Ma allora io volevo dire due cose su quello che ha appena detto Alberto, che saluto, conveniamo tutti su un fatto, su questo è difficile che si possa essere smentiti, tutte le situazioni esplosive e rivoluzionarie sono sempre una mescolanza di ragioni concrete, quotidiane, pane e lavoro, diciamo così, e di un complesso di condizioni legate invece all'espressione della libertà, dei diritti civili, politici e religiosi. E quindi in tutte le rivoluzioni che abbiamo fronteggiato in questi due anni, con un diverso mix, ma queste ragioni erano entrambe presenti. Io credo che abbiamo una responsabilità nell'analisi quando non getto la croce addosso a qualcuno in particolare, diciamo, ce l'assumiamo ciascuno pro quota. Tendiamo agli innamoramenti, per cui eravamo prima innamorati, magari per convenienza, non era un matrimonio d'amore, della stabilità dell'Egitto di Mubarak, invitato come sostanzialmente controparte quando con il lancio dell'Unione per il Mediterraneo da Sarkozy e con Assad ospite d'onore, anno di grazia 2008. Poi scopriamo improvvisamente la rivoluzione secolare, nazionale, colorata e quindi ci innamoriamo dei blogger. Poi 3 mesi dopo scopriamo che in fondo questi islamici hanno pagato con tanta galera la loro opposizione al regime, sono i più titolati a ereditare le catene del potere. Poi scopriamo invece, allora, se invece di scoprire ogni volta questi innamoramenti temporanei mettessimo tutti i pezzi nello stesso del puzzle a posto, ci renderemo conto, come giustamente diceva Alberto, che sono società composite in cui io faccio fatica a dire che la natura dell'Egitto, come sentivo dall'ascoltatore, legittimamente è una natura laica. Perché anche negli anni di Mubarak, negli ultimi anni di Mubarak, io vedevo, visitando quel paese, un numero crescente, ad esempio, di donne della borghesia cairota che per rivendicare l'unità religiosa cominciavano a coprirsi. Magari si coprivano con un velo di Hermès, ma si coprivano. Allora, le due identità convivono, devono trovare il modo di convivere, però per far convivere politicamente identità così diverse e che tendono così a radicalizzarsi, occorre una grande maturità politica. Una storia che noi abbiamo raccontato tanto andando in questi anni in quei paesi era, non sorridete vi prego, tenete conto della storia italiana del dopoguerra, culture fortemente contrapposte, capaci di scrivere assieme una Costituzione e capaci di affrontarsi duramente magari nella piazza, ma di riconoscere un ruolo di maggioranza e opposizione nelle istituzioni. Però era la maturità delle democrazie, pur giovani come quella che noi abbiamo sperimentato. Allora io non mi aspetto, non era lecito aspettarsi che paesi che sono passati direttamente dalla fase coloniale, postcoloniale, ai regimi autoritari, arrivassero a Westminster in 2 anni o 3 anni, con modelli di democrazia continentale matura. Per cui sarà una serie di stop and go, di arretramenti e avanzamenti, che ci faranno molto patire, questo e soprattutto faranno patire quei paesi. Però noi non dobbiamo mai dimenticare che quando abbiamo stappato la bottiglia nel 2011, cioè stappato la bottiglia sociale, è venuto fuori un liquido lungamente represso, questo secondo me ha dato un empowerment a quelle nuove generazioni. E un giorno cacciano un dittatore, o 2 anni dopo magari ne vogliono cacciare un altro che percepiscono come dittatore, ma è una dinamica che si è messa in moto. Noi non possiamo girarci dall'altra parte, dobbiamo cercare di assecondarla perché recuperino questo senso di maturità e di inclusività che serve per consolidare questo processo. Grazie alla Popistelli, ci fermiamo per la... voi. Buona giornata, ci fermiamo per la viabilità e poi voglio risentire Magdi Allam, soprattutto su quello che diceva poco fa Alberto Negri. Insomma, non ci dimentichiamo che questo nuovo governo egiziano nasce dalle ceneri di un governo laico che ha fallito, come in altri casi nei paesi arabi. 9 in punto. Allora, Magdi Cristiano Allam, la voglio sollecitare su un paio di cose. La prima è la domanda che ho anche fatto a Pistelli all'inizio. Insomma, non è che noi abbiamo dato troppo credito, il cosiddetto Occidente ha dato troppo credito a questo nuovo corso egiziano, da una parte. Dall'altra parte quello che dice Alberto Negri. Insomma, non scordiamoci che anche i regimi laici hanno fallito. Pistelli dice che l'Occidente ha favorito la democrazia, come dire, usa un eufemismo, perché sia nel caso di Ben Ali in Tunisia, sia nel caso di Mubarak in Egitto, ci sono state delle pressioni fortissime con degli out, con un condizionamento nei confronti delle forze armate per cacciare sia Ben Ali sia Mubarak. In Libia si è intervenuti militarmente per uccidere Gheddafi e rovesciare il regime, e in Siria si sta facendo qualcosa di molto simile, sostenendo quelli che chiamano, sempre con un eufemismo, i ribelli, e parliamo di integralisti, estremisti e terroristi islamici. Quindi l'Occidente, se si parla di fallimento, dobbiamo parlare anche di un fallimento dell'Occidente. Sono d'accordo con Alberto quando parla della sconfitta, del fallimento dei regimi laici, con però un'avvertenza. Il fallimento è sempre dovuto ad una questione sostanzialmente economica. In questi paesi quello che manca è il ceto medio. Non si è investito per favorire la presenza soprattutto di giovani che rappresentino dei microimprenditori e che costituiscano un cuscinetto tra un'elite che ha troppo e una maggioranza che ha poco o nulla. Questa è la grande sfida che c'è, e che è più facile che venga recepita e risolta da un regime laico che non da un regime islamico, chiarendo, mi scuso della lungaggine, che parliamo di paesi che sono musulmani. Quando parliamo di laici non è che parliamo di non musulmani, parliamo di musulmani che però hanno una concezione moderata della vita, mentre nel caso degli islamici parliamo di persone che quando arrivano al potere usando la democrazia intendono perseguire, realizzare la Sharia, la legge coranica. Ecco perché non sono in grado di risolvere i problemi economici e al tempo stesso privano delle libertà fondamentali i cittadini. Ibrahim da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno a lei. Prego. Ma scusa un attimo, volevo dare solamente le mie opinioni del problema che sta succedendo adesso in Egitto. Lei è egiziano? Lei è egiziano? No, sono del Marocco, io sono del Marocco. Prego. No, io solamente voglio dire questo, possiamo dare un attimo di tempo a questo presidente qua Morsi a fare il suo? Ma perché una volta che ci vanno dei divertimenti di quelli che erano prima al potere, abbiamo sempre da dire di rompere la gente che vuole fare qualcosa? Ne possiamo dare un attimo di tempo, perché quando c'era la di Mubarak, in 40 anni la gente è stata sempre zitta, non ha mai detto niente. Ma perché adesso questi sono qua, un anno che è al potere, l'abbiamo mai lasciato neanche lavorare? Grazie Ibrahim, sentiamo anche Zubair da Parma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Per la trasmissione. Allora, io vorrei cominciare il mio discorso con, cioè, faccio tre punti precisi. Breve, breve Zubair, mi raccomando, Ok, va bene. Critica a Morsi dopo 2 anni di elezione, delle critiche che portano a proporre l'esercito come unica soluzione, visto che a me sorprende sinceramente, visto che poi l'esercito è stato inserito da 40 anni o più di 40 anni, ha prodotto un paese in cui si faceva guerra per il pane. e adesso si propone ancora l'esercito. Io dico, piuttosto di sconfiggere Morsi con l'esercito, bisogna aspettare l'elezione, e sono gli egiziani che sono gli unici a poterlo giudicare. Poi volevo dire una cosa, Morsi ha preso un paese distrutto a livello economico, cioè in 2 anni non è che c'ha la baghetta magica per cambiare tutto, e sta combattendo, al mio parere, anche un potere molto forte che è rimasto di Mubarak e che rappresentano degli interessi economici e geopolitici nella zona, e soprattutto dell'Egitto, che ha sempre influenzato nel mondo arabo. Questo è il mio parere. Grazie anche a lei. Grazie anche a lei, Zubair. E quindi abbiamo la persona giusta a cui girare queste due domande, appunto Osama Boshra, che abbiamo sentito all'inizio, che è un attivista egiziano in piazza contro Morsi. Abbiamo solo pochi minuti per rispondere a questi due ascoltatori. Non so se Zubair in realtà fosse egiziano, Ibrahim non lo era, però ha sentito che i ragionamenti erano paralleli. Era un po' il lasciatelo lavorare questo Morsi. Boshra. Io avrei risposto subito ai due gentili ascoltatori, perché mi sento assolutamente in dovere di farlo. Il primo signore diceva che Morsi non ha la bacchetta magica, che dobbiamo dargli un po' di spazio, e che dopo 30 anni del regime di Mubarak Morsi in un anno non può fare tanto. Assolutamente falso. Perché Morsi dal primo momento ha fatto in modo di dividere l'Egitto. Morsi aveva oltre la bacchetta magica. Morsi dal primo momento aveva promesso agli attivisti che l'hanno votato, che erano contro Fratelli Musulmani, da non far arrivare il suo avversario, di rinominare l'assemblea costituzionale. Cosa che Morsi non ha più fatto da quando è arrivato al potere. Morsi, da quando è arrivato al potere, ha portato all'Egitto il peggior primo ministro che possa esistere sulla faccia della terra. Morsi, da quando è arrivato al potere, è sempre visto, circondato da terroristi. Questo va sottolineato, va detto a tutto il mondo. Morsi è stato solo capace di riunire tutti gli egiziani da una parte, Fratelli Musulmani dall'altra parte. Punto e basta. La battaglia oggi, Egitto sì o no? Fine. Grazie anche ad Osama Boshra, ringrazio anche Magdi Cristiano Allam, europarlamentare e presidente di Io Amo l'Italia, Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, ringrazio tutti voi per averci accompagnato in questa puntata, chiedo scusa a Stefano da Roma e a tutti gli altri ascoltatori che non sono riuscito a far intervenire, vi ricordo la nostra pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24, c'è anche l'email naturalmente 9in.radio24. Il mio account Twitter, Simone Spezia, se volete mi trovate là. Ringrazio anche Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione. Un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 89 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.